Buonasera cari radioascoltatori e benvenuti ad un'altra puntata di Ciro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre sulle frequenze di Radio Alma 101.9 ogni giovedì. In studio Annalisa e Simone in regia e Maurizio dalla Ciao. nostra redazione. Dovrebbe esserci in collegamento dall'AIA Alessandra, la nostra co-conduttrice. Buonasera Annalisa e buonasera Ciao. Ciao Alessandra, e dunque diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti di questa sera. Abbiamo in studio Antonio Missiroli, direttore degli studi allo European Policy Center qui a Bruxelles, un istituto di ricerca. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao a tutti, buonasera. E dovremmo avere in collegamento da Roma Corrado Accaputo, giornalista presso l'agenzia APICOM, appunto sede di Roma, redazioni esteri, che si occupa di difesa. Ciao Corrado, ci senti? Ciao, buonasera, vi sento. Perfetto, quindi abbiamo Corrado Accaputo in collegamento da Roma, Antonio Missiroli qui da Bruxelles. Di che cosa parleremo questa sera con i nostri ospiti? Parleremo del summit della NATO che si terrà la prossima settimana, il 3 e il 4 aprile, nelle città di Strasburgo e Kiel, quindi tra Francia e Germania, una NATO che si appresta a celebrare il suo 60° compleanno. Parleremo quindi con i nostri ospiti dei risultati ottenuti dalla NATO in tutti questi anni e delle sfide che attendono l'Alleanza Atlantica negli anni a venire. Ma prima di iniziare vorrei annunciare un evento che si terrà la settimana prossima. È un evento organizzato al Parlamento europeo dall'onorevole Monica Frassoni, che ha il piacere di invitare tutti i radioascoltatori, tutti coloro che sono interessati, a La mappa del potere, un incontro con Beppe Grillo e la partecipazione di Beppe Scienza, studioso del risparmio e della previdenza integrativa, e Roberto Vassalle, esperto di diritto bancario e finanziario. Questo incontro appunto si terrà la settimana prossima, mercoledì 1 aprile, dalle 18:30 alle 20, presso il Parlamento europeo. Tutti coloro che sono sprovvisti di badge per poter accedere alle istituzioni sono pregati di contattare l'ufficio dell'onorevole Frassoni entro la giornata di domani al seguente indirizzo email monica.frassoni@europarl.europa.eu. Appunto un incontro organizzato settimana prossima con Beppe Grillo, la mappa del potere. Ma ritorniamo a quello che è l'argomento di questa sera con i nostri ospiti, appunto parleremo del summit della NATO, Alleanza Atlantica che si appresta a celebrare il suo 60° compleanno. Antonio, vorrei partire da te, ti faccio subito una domanda, quindi quali sono i motivi di festeggiamento, quali invece i motivi di riflessione e di discussione? Ma di solito nella vita quando si compiono 60 anni non si ha tanta voglia di festeggiare, anche se ormai la vecchiaia arriva sempre più tardi. 60 anni è la terza età. E per la NATO è forse il riconoscimento di essere in una terza fase della sua storia, della sua esistenza. C'è stata la fase della guerra fredda che è durata una quarantina d'anni, c'è stata la fase del dopoguerra fredda, quando la NATO in realtà è stata per la prima volta impegnata militarmente nei Balcani, nelle prime azioni di combattimento vere e proprie da quando era stata fondata, e ora in questa terza fase la NATO è essenzialmente fuori d'Europa. È soprattutto in Afghanistan, oppure compie missioni e doveri che non fanno parte tradizionalmente di quello che l'alleanza è stata creata per fare, e ci sono motivi di riflessione all'interno dell'alleanza anche per cercare di capire quali sono i compiti futuri possibili, qual è il destino dell'alleanza, ora che la ragione per la quale era stata creata ormai non esiste più da tempo, ma diciamo così, lo spettro del possibile impiego della NATO è così ampio e vago allo stesso tempo. Corrado, ti rigiro la domanda. Motivi per festeggiare o sarà più secondo te un summit dedicato alla riflessione e alla discussione su quelle che saranno invece le sfide che attendono la NATO? Ma guarda, io direi che sarebbe molto più utile riflettere e discutere piuttosto che festeggiare. La mia opinione personale è che tutto sommato si tratti di un'organizzazione di successo, rappresenta il legame tra i due lati dell'Atlantico ed è un perno, diciamo, del sistema di sicurezza internazionale. È evidente che diciamo, si tratta di un'organizzazione che deve adattarsi al cambiamento dello scenario internazionale, e la NATO mi pare che stia provando a tarare il proprio impegno sulla realtà attuale. Il vostro ospite accennava alle tre fasi della traversata della NATO in questo sessantennio. Ecco, io direi che più che altro, diciamo, adesso l'impegno vero, o meglio la modifica dell'impegno della NATO, è avvenuta nel 2001 con gli attentati alle Torri Gemelle, perché la minaccia terroristica in qualche modo associata poi alla missione in Afghanistan e ai cambiamenti nel sistema internazionale ha creato all'interno della NATO una serie di discussioni circa il suo ruolo teorico, strategico, ma anche pratico, operativo, che poi saranno quelle che porteranno presumibilmente entro l'anno prossimo, diciamo, a un nuovo concetto strategico, ma poi magari ne parliamo più approfonditamente. Corrado, hai parlato di Afghanistan, è sicuramente un tema su cui politici e analisti sulle due sponde dell'Atlantico concordano nel ritenerlo un banco di prova per il futuro dell'alleanza, ma a questo punto, con tutte le notizie che si ricevono quotidianamente dall'Afghanistan, vorrei chiedere sia a te che ad Antonio quali sono i criteri per poter poi un giorno definire la missione ISAF in Afghanistan un successo. Sostanzialmente, che cosa significa a questo punto vincere in Afghanistan? Ma guarda, innanzitutto farei una premessa. Io credo che oggi più di ieri in Afghanistan sia necessario un approccio globale, perché quello puramente militare, mi sembra ormai sia chiaro a tutti, non potrà risolvere i problemi di questo paese. Questo significa che cosa? Significa che bisognerà estendere gli impegni militari, diplomatici ed economici di fronte all'insurrezione e dall'altra parte includere anche importanti rinforzi civili, una formazione accresciuta dell'esercito afghano, un dialogo con gli insorti, un rafforzamento degli aiuti al vicino Pakistan, come dire un approccio più regionale che possa anche coinvolgere l'India e l'Iran. Ecco, se si riuscirà a fare tutto questo, ricordo per inciso che questo è nei programmi della presidenza italiana del G8, se si riuscirà a fare tutto questo, se si lascerà più spazio, come dire, alla forza della diplomazia piuttosto che a quella delle armi, ecco, a mio avviso ci saranno quei progressi auspicati nel campo politico, sociale, economico e della sicurezza che potranno in qualche modo, diciamo, definire un successo, almeno insomma parziale, la missione la missione della NATO in Afghanistan. Questo certamente a mio avviso può significare anche un ridimensionamento come dire delle aspettative di una vittoria puramente militare, però ecco, credo che questa sia l'unica strada percorribile e soprattutto l'unica appunto che possa garantire un successo. Ma sì, sono assolutamente d'accordo. Diciamo che se alla fine della guerra fredda la NATO rischiava di essere vittima del proprio successo, aver vinto la guerra fredda e il confronto con l'Unione Sovietica e il blocco dell'Est senza mai dover sparare un colpo, perché di questo si è trattato, oggi un po' la NATO rischia di essere vittima di un insuccesso che non è essenzialmente colpa sua, ma nel quale rischia di essere coinvolta. Intendiamoci, le forze propriamente NATO impegnate in Afghanistan sono più o meno il 10-15% dell'insieme delle forze militari in quel paese, quindi la NATO non è il giocatore chiave, però la NATO è stata impegnata e quindi c'è un problema di credibilità. La NATO non può permettersi di perdere, qualunque cosa perdere possa significare in questo momento. Nello stesso tempo si tratta di un conflitto che non suscita l'entusiasmo dei cittadini europei, che devono pagare per mandare i propri soldati laggiù, e soprattutto, come diceva Corrado poc'anzi, non si capisce bene quale sia l'obiettivo strategico di questa presenza militare, di questi combattimenti sul terreno contro i ribelli talebani. Si aspetta domani il disvelamento da parte di Barack Obama della nuova strategia americana in Afghanistan, Pochi giorni dopo ci sarà il vertice NATO a Strasburgo e Kiel, in cui inevitabilmente, anche se è una festa di compleanno, nei discorsi di auguri si farà inevitabilmente riferimento anche al futuro dell'Afghanistan, si chiederanno impegni ai paesi alleati. Non c'è dubbio che da parte americana sono già venuti alcuni segnali, il segretario della difesa Robert Gates, che pure era già nell'amministrazione Bush precedentemente, ha lasciato capire che l'amministrazione americana premerà per obiettivi molto più modesti, non si tratta più di fare dell'Afghanistan una specie di Svezia, una specie di democrazia avanzata in piena Asia centrale, ma semplicemente di evitare che d'ora in poi un pericolo grave per l'Occidente, per la democrazia nel mondo, possa di nuovo venire dall'Afghanistan come era avvenuto nel 2001. Questo probabilmente presuppone un cambiamento di obiettivi intermedi, anche di metodi da usare, in particolare per quanto riguarda il rapporto con la popolazione, in particolare per esempio gli agricoltori che coltivano l'oppio e che lo vendono illegalmente sui mercati internazionali. Tra l'altro è questo probabilmente uno degli elementi chiave di una possibile nuova strategia. Non si tratta semplicemente o soltanto di cercare di parlare con i presunti moderati fra i talebani, ma di togliere ai talebani la base di consenso possibile, quindi cercare di portare buona parte della popolazione civile dalla propria parte o comunque dalla parte del non conflitto, della non violenza e di un ordinamento più sostenibile. Questo può tradursi nel fatto che per esempio una serie di azioni anche militari intraprese soprattutto dalle forze americane negli ultimi anni nei confronti della popolazione civile e dei coltivatori di oppio debbano essere fermati e che la comunità internazionale, compresi i paesi europei, comprese le organizzazioni non governative, comprese le fondazioni, contribuiscano anche dal punto di vista finanziario ad acquistare questi raccolti di oppio a prezzi di mercato o a distruggerli o a rimetterli sul mercato dei prodotti farmaceutici in modo da garantire agli agricoltori un reddito senza né danneggiarli né spingere dalla parte dei talibani e dei ribelli. Secondo voi è realistico attendersi da parte degli alleati europei un contributo aggiuntivo allo sforzo militare in Afghanistan? Ma guarda, non è facile prevedere. Per quanto riguarda l'Italia, quello che io vi posso dire è che al momento le forze impiegate all'estero sono veramente tante rispetto alle possibilità che in questo momento la nostra difesa ci consente. Ci sarà un piccolo incremento in prospettiva delle elezioni presidenziali che, come sapete, si svolgeranno il 20 di agosto, si arriverà ad una quota intorno ai 3.000 uomini, che è veramente il massimo che l'Italia si può permettere. Per quanto riguarda gli altri, potrebbe esserci un incremento da parte della Francia, ma anche lì dopo l'adesione al comando integrato, però anche lì si parla di qualche centinaio di uomini. In realtà la parte preponderante ancora una volta la faranno gli Stati Uniti. Se posso aggiungere un dato di cronaca, proprio oggi Barack Obama ha fatto sapere che gli Stati Uniti incrementeranno ulteriormente il loro sforzo e lo faranno soprattutto da un punto di vista dell'addestramento delle forze dell'ordine locali, quindi dell'esercito, della nuova polizia. Questo perché? Perché sia gli Stati Uniti che l'Alleanza Atlantica puntano molto sulla possibilità di arrivare entro pochi anni ad una autogestione della sicurezza, che sarebbe in qualche modo un primo passo per poi pensare ad una exit strategy. E Obama oggi ha fatto sapere che invierà altri 4.000 uomini che si dedicheranno proprio alla formazione, all'addestramento delle nuove forze dell'ordine. Quello che secondo me comunque gli Stati Uniti continueranno ad avere la parte preponderante dell'impegno sono inarrivabili da un punto di vista anche della spesa militare, degli uomini a disposizione. Il vantaggio che hanno gli europei semmai è quello di essere in qualche modo abituati alle missioni di stabilizzazione, ecco, quindi se l'Europa non può fare, come dire, concorrenza agli Stati Uniti per quanto riguarda la spesa militare, gli armamenti e gli uomini, ecco, da un punto di vista invece dell'esperienza nelle operazioni di stabilizzazione può tornare molto utile ancora di più in Afghanistan nei prossimi mesi. Sì, anch'io sono d'accordo che gli europei non metteranno a disposizione molte più forze militari nell'operazione in Afghanistan. Può darsi, come fa l'Italia, come fanno gli olandesi, come probabilmente faranno anche altri, che ci sia un aumento temporaneo a breve termine in vista delle elezioni presidenziali per garantire uno svolgimento minimamente ordinato del voto, ma piuttosto la voce che circola in ambienti europei, anche in paesi che si sono finora impegnati a fondo nell'operazione militare in Afghanistan come l'Olanda, è piuttosto quella di una cosiddetta exit strategy, si comincia a parlare di portare via i propri soldati dal paese e quindi si comincia a mettere sotto pressione anche l'alleato americano perché appunto emerga con una strategia più credibile che sia vendibile anche all'opinione pubblica domestica. Per quanto riguarda l'addestramento delle forze di polizia, forse gli ascoltatori non sanno che l'Unione Europea come tale ha lanciato un'operazione un paio d'anni fa che si chiama EUPOL, soprattutto nella capitale Kabul, che però non sono impegnato un 150-20 uomini a direzione tedesca. Non viene considerata una delle migliori missioni di polizia finora condotte dall'Unione Europea nel mondo, comparata a quello che è stato fatto nei Balcani o in altre parti vicino all'Europa, non è considerata un grande successo e si sta parlando della possibilità di rafforzarla. In particolare la domanda riguarda i carabinieri italiani sono considerati tra le forze di polizia per questo tipo di operazione di stabilizzazione tra le più efficaci al mondo, e per il momento le forze dei carabinieri impegnate nell'addestramento di polizia propriamente detto ce ne sono veramente pochi in Afghanistan, quindi può darsi che l'Italia in prospettiva ritiri i soldati diciamo nell'arco di un anno e mezzo e tenda a rimpiazzarli piuttosto con carabinieri impegnati in questo tipo di missione. Per concludere sull'argomento dell'Afghanistan, io avevo una domanda. Volevo sapere dei nostri due ospiti che cosa loro considerano la missione in Afghanistan, è da considerarsi come un precedente o piuttosto come un'eccezione? E l'Alleanza Atlantica deve concentrarsi sulla protezione nell'area euroatlantica o piuttosto sulla promozione dei suoi valori nel mondo, nel futuro? Ma guarda, io la considererei più un precedente più che un'eccezione, nel senso che a mio avviso le missioni della NATO nei prossimi anni saranno sempre più, come dire, spostate verso un tentativo di stabilizzazione di aree di crisi con interventi di peacekeeping e non invece con come missioni di offensive di guerra, di lotta al terrorismo. Ecco. Io direi che perlomeno l'Afghanistan nei prossimi mesi e anni potrà essere presa, come dire, a modello per poi tarare meglio questo tipo di impegno laddove ce ne dovesse essere, insomma, bisogno, dovesse essere richiesto. Secondo me un po' tutte e due, cerco di spiegarmi. L'Afghanistan è stato un'eccezione perché è nato dall'11 di settembre. E quindi la solidarietà internazionale nei confronti degli Stati Uniti è stata incondizionata, e quando nel 2003 si è cominciato a parlare della possibilità di impegnare l'alleanza in quel teatro sarebbe stato molto difficile per chiunque dire di no, anche se la missione è cominciata come una missione piccola e poi si è via via allargata. Quindi da questo punto di vista è stata un po' eccezionale, perché diversamente la NATO non avrebbe cominciato a impegnarsi fuori dall'area euroatlantica proprio in Afghanistan, a tante migliaia di chilometri dall'Europa, in posti poco noti e in condizioni che rendono molto difficile difendere una prolungata permanenza di contingenti militari importanti così lontano dal teatro europeo e a questi costi. Ma è stato anche un precedente, e qui Corrado ha assolutamente ragione, perché sicuramente se la NATO ha un futuro nei prossimi anni sarà quello appunto di impegnarsi anche fuori d'Europa in missioni, se non di questo tipo, comparabili. Credo che non sia un segreto che, mentre non si è mai veramente proposto di impegnare la NATO in Iraq, perché le divisioni fra i paesi alleati, anche proprio sulla guerra, erano troppo forti, non è un segreto che si parli della possibilità, qualora mai si arrivi a un accordo di pace in Medio Oriente, di schierare forze NATO con forti contingenti europei, magari anche con un accordo bilaterale con l'Unione Europea che permetta di mettere in atto anche missioni propriamente europee con bandiera europea, tra la Cisgiordania e Israele. Non tanto a Gaza, questo è più complesso da valutare, ma quando si è avuta la speranza, prima dell'ultimo conflitto a dicembre-gennaio, di poter arrivare a qualche accordo, si ricorderà che diversi uomini di governo in Europa occidentale avevano manifestato una disponibilità in questo senso. Anche alcuni anni fa voci di questo tipo erano circolate. Il Medio Oriente, diciamo, non è l'Afghanistan, nel senso che è più vicino, il conflitto è molto più prossimo ai cuori dell'opinione pubblica europea, ma ovviamente anche molto più lontano dei Balcani o di altre aree prossime all'Europa. Io volevo fare una domanda a entrambi gli ospiti, che poi ne contiene due. Più volte è venuto fuori il nome di Obama. Cosa può cambiare dal punto di vista della NATO con l'insediamento di Obama alla presidenza degli Stati Uniti, e soprattutto per quanto riguarda i rapporti fra Stati Uniti e Iran? Cosa può fare la NATO, se può fungere da intermediario per una distensione, se può giocare comunque un ruolo importante? Direi innanzitutto che mi sembra che dai primi mesi di presidenza di Obama, per quanto riguarda la politica estera, si possa parlare, come dire, di un atteggiamento di distensione. L'Iran è certamente l'altro aspetto del problema Afghanistan, nel senso che il coinvolgimento diplomatico di Teheran nel processo negoziale per la stabilizzazione dell'Afghanistan mi sembra che è necessario, e questo credo sia palese a tutti, ma quale sarà il reale impegno iraniano in questo processo invece è tutto da scoprire. E secondo me, come dire, ci vorrà parecchio tempo, perché Teheran in un certo qual modo ha bisogno di internazionale e non potrà farlo a stretto giro di posta. Tanto più che se ti interrompo, è di oggi sul giornale la notizia che c'è stato un primo confronto tra Iran e NATO, a seguito proprio dell'appello del segretario generale dell'Alleanza Atlantico. E domani peraltro ci sarà una riunione a Mosca in Russia, dove i rappresentanti di Stati Uniti e Iran potrebbero trovarsi seduti allo stesso tavolo. Si tratta di una riunione che è consacrata alla questione afghana e non solo, e l'Iran parteciperà con un suo osservatore. È una riunione dello SCOC, cioè dell'organizzazione di Shanghai, che era stata promossa nel 2001 dalla Cina e dalla Russia, che viene considerata da qualcuno quasi come un antinato. Ecco, quello potrebbe essere l'occasione per mettere assieme ad alto livello, a livello di viceministri, gli Stati Uniti e l'Iran, per tentare, come dire, un nuovo approccio. Di certo l'apertura di Obama dei giorni scorsi è stata un'assoluta novità, che probabilmente potrebbe raccogliere i suoi frutti nei prossimi mesi. Ecco, la cosa importante è che, diciamo, la diplomazia poi vada di pari passo con i fatti. Ad esempio, per quanto riguarda l'Afghanistan, la NATO ha raccolto una serie di prove che testimoniano un imponente contrabbando di armi attraverso i confini iraniani. Ecco, questo per dire cosa? Non che ci sia necessariamente un coinvolgimento diretto della leadership di Teheran, ma che senza dubbio questo è un problema che Teheran dovrà contribuire a debellare. Antonio? Sì, l'impressione è che gli Stati Uniti in questa circostanza si sono mossi con una certa abilità diplomatica. C'è stato anche un invito esplicito del segretario di Stato Hillary Clinton alcuni giorni fa all'Iran a partecipare a questa conferenza internazionale che Alessandra si dovrebbe tenere fra qualche giorno proprio all'Aia, come osservatore in quanto paese vicino all'Afghanistan. Ora, forse gli ascoltatori non sanno che storicamente i talebani sono stati i nemici storici del regime dell'Ayatollah, quindi in un primo tempo, quando gli Stati Uniti intervennero in Afghanistan abbattendo il regime dei talebani, Teheran non era affatto dispiaciuta di quello che era avvenuto. È stato quando gli Stati Uniti sono intervenuti in Iraq, quando si è alzata la retorica e la polemica fra Teheran e Washington, che gli iraniani sono stati meno contenti, anche perché si erano trovati in qualche modo circondati, avendo operazioni imponenti militari americane nei due paesi tra cui è stretto l'Iran, che sono appunto l'Afghanistan e l'Iraq. Cominciare a riallacciare relazioni e contatti con Teheran partendo dall'Afghanistan, che è un punto di minore attrito fra Teheran e Washington rispetto ad altri, mi sembra da questo punto di vista una mossa piuttosto accorta. L'idea di avere una specie di gruppo di contatto anche regionale per cercare di stabilizzare l'Afghanistan, che può essere anche nell'interesse di Teheran in questa situazione, è sicuramente un'idea intelligente. Va detto però, senza con questo voler spostare la discussione in un'altra direzione, che forse la vera chiave per stabilizzare l'Afghanistan non si trova in Iran, ma purtroppo si trova in Pakistan. Bene, direi di fare ora una pausa musicale prima poi di rientrare su una questione, un'altra questione spinosa per la NATO alla vigilia del summit, ossia i rapporti con la Russia. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera con i nostri due ospiti parliamo di NATO, una NATO che si appresta a celebrare il suo 60° compleanno al summit il 3 e 4 aprile a Strasburgo e Kiel. Ne parliamo questa sera con Corrado Accaputo, giornalista per l'agenzia Apicom, sede di Roma, redazione esteri che si occupa di difesa, e con Antonio Missiroli, direttore degli studi allo European Policy Center qui a Bruxelles. Abbiamo parlato di Afghanistan, vorrei ora parlare, introdurre un tema altrettanto difficile e altrettanto spinoso per la NATO alla vigilia del summit, ossia i rapporti con la Russia, rapporti che sono stati congelati dopo la guerra tra Russia e Georgia dell'estate scorsa, rapporti che ora sono in una fase di lento disgelo a partire dall'insediamento dell'amministrazione Obama, ma il fatto che al di là della guerra tra Russia e Georgia sono diverse comunque le questioni che hanno reso negli ultimi tempi i rapporti tra NATO e Russia difficili, basta pensare alla difesa missilistica, anche al trattato CFE. Vorrei chiedere quindi ai nostri ospiti come vedono l'evoluzione del partenariato tra NATO e Russia, e chiedere ai nostri ospiti se appunto secondo loro sarà veramente possibile per le due parti focalizzarsi su aree di comune interesse, quindi cooperare su aree dove le due parti hanno un interesse comune, come può essere per esempio l'Afghanistan. Antonio. Diciamo che alcuni mesi fa il Cremlino era arrivato alla conclusione probabilmente che si apriva una fase di gelo fra Washington e Mosca, tra Mosca e la NATO, insomma, diciamo, era una delle conseguenze, se volete, della guerra in Georgia. Poi Mosca è stata colta un po' di sorpresa dall'apertura fatta dall'amministrazione Obama, la famoso incontro fra Hillary Clinton e Nikolai Lavrov, in cui il segretario di Stato ha presentato al ministro degli esteri questo bottone con scritto reset, che significa far ripartire da zero, rilanciare dall'inizio le relazioni bilaterali come se l'era Bush non ci fosse stata. E l'impressione che si ha è che il Cremlino sia un pochino in difficoltà dopo essersi messo in modalità aggressiva alcuni mesi fa in modo quasi irreversibile, ora si trova di fronte un'offerta, se non di pace, di parziale disgelo. Ancora una settimana fa il presidente Dmitry Medvedev ha annunciato probabilmente il più grande programma di riarmo delle forze convenzionali russe degli ultimi 20 anni, che non è necessariamente un segnale di disgelo, e nello stesso tempo però pare che alcuni contatti per quanto riguarda il disarmo strategico, la ripresa dei negoziati sul disarmo in Europa dopo la sospensione del trattato FCE da parte della Russia, siano in atto. Sicuramente l'amministrazione Obama sta lanciando segnali abbastanza chiari che non ha alcuna intenzione di insistere molto rapidamente sul programma di difesa missilistica. La stessa Repubblica Ceca ha dovuto accantonare la ratifica del trattato per installare il sistema radar nel proprio paese. Ci sono alcuni piccoli segnali di, se non di disgelo, di minore attrito. Ci sono probabilmente in corso alcuni test reciproci. L'impressione è che gli Stati Uniti vogliono capire se, per esempio, nel quadro dell'accordo NATO-Russia sarà possibile ridiscutere del diritti di sorvolo dello spazio aereo russo per gli americani per arrivare in Afghanistan. Si parla di una serie di iniziative appunto per quanto riguarda il taglio alle testate nucleari propriamente dette da parte di Russia e Stati Uniti. Sull'Iran è più difficile leggere che cosa stia effettivamente accadendo, perché se posso usare una formula un po' trita, l'interesse tattico russo non è certo lo stesso degli Stati Uniti o degli europei da questo punto di vista, ma l'interesse strategico alla fine potrebbe coincidere. Cosa voglio dire? Che la Russia è tuttora il principale fornitore di tecnologia e di carburante nucleare per il programma iraniano, ma non, nello stesso tempo non ha interesse a che l'Iran diventi una potenza nucleare dal punto di vista militare. Come riesca a quadrare questo circolo e a trovare un terreno comune di azione con gli Stati Uniti e anche gli europei da questo punto di vista riesce molto difficile a capire in questo momento. Credo che dobbiamo prepararci a una fase in cui come dire, accanto a una retorica ancora abbastanza forte e aggressiva da parte russa ci sarà un tentativo di esplorare se gli americani fanno sul serio. Corrado, tu come vedi l'evoluzione dei rapporti tra NATO e Russia? Ma guarda, io intanto concordo con quanto ha detto Antonio prima, aggiungerei che per quanto riguarda i rapporti con la NATO, la Russia a mio avviso resta un partner irrinunciabile, senza il quale non è possibile realizzare compiutamente ed efficacemente la sicurezza europea. E l'alleanza a mio avviso dovrà continuare a lavorare insieme alla Russia nei fori multilaterali che sono stati appositamente istituiti per ottimizzare appunto la sicurezza reciproca, però tenendo presente due cose, cioè che nessuna iniziativa dell'alleanza, come potrebbe essere l'allargamento o la difesa missilistica a cui accennava Antonio, è diretta contro la Russia, e poi che nessun paese possiede come dire, il diritto di veto sulle libere decisioni di altri stati in termini di scelta del sistema di sicurezza a cui appartenere. Ecco. Per quanto riguarda invece l'altra parte della domanda, cioè le aree di interesse comune, l'Afghanistan è certamente una di queste, e sicuramente la soluzione del problema passa inevitabilmente attraverso un dialogo più prospero, più fruttuoso tra la NATO e la Russia, oltre che, come diceva Antonio prima, attraverso il coinvolgimento di attori regionali, in primis il Pakistan. Certo, l'ipotesi che forze russe possano essere inviate in Afghanistan è assolutamente da escludere, però Mosca senza alcun dubbio vuole essere maggiormente coinvolta in quella sorta di buco nero di instabilità che come dire, rischia di inghiottire una parte dell'Asia centrale. Ecco. La memoria suggerisce a Mosca di stare lontana da Kabul, ma la geopolitica impone a mio avviso scelte diverse, e la Russia che ha interesse a rendere stabile il bacino energetico del Caspio, a riprendere influenza sull'Interland centroasiatica, a fermare quel flusso di eroina che invade le sue notti, ecco, sa di non poter lasciare agli Stati Uniti e all'Alleanza Atlantica la gestione di questa infinita guerra afghana. Tra l'altro, se parliamo di anniversari, sono 20 anni proprio in queste settimane che l'Unione Sovietica abbandonò l'Afghanistan, lasciò l'Afghanistan dopo averlo invaso nel 79, fu nel marzo del 1989, pochi mesi prima del crollo del muro di Berlino, che l'Armata Rossa lasciò Kabul e l'Afghanistan battuta e sconfitta dai mujahideen all'epoca. Quindi ci sono anche dei corsi e ricorsi storici di qualche interesse. Ci sono anche alcuni casi bizzarri, così lo dico solo, come dire, a fine di aneddoto, di soldati estoni e baltici che si trovarono ad essere in Afghanistan due volte nell'arco di non moltissimi anni, prima con l'Armata Rossa negli anni 80 e poi con la NATO dopo l'avvio dell'operazione ISAF, e raccontano appunto della strana impressione di ritrovarsi sul luogo del delitto ma con una casacca completamente diversa e obiettivi diversi. Vorrei tornare ad un tema accennato da Corrado ad inizio di trasmissione, il concetto strategico. Sicuramente una NATO che è stata accusata da più parti di essere in una sorta di deriva strategica, di aver attraversato una crisi esistenziale all'indomani della guerra fredda, quando l'antagonista storico è venuto meno, quando il nemico, il collante che ha tenuto insieme l'alleanza durante la guerra fredda è venuto meno. Si è parlato di Afghanistan, quindi di un possibile ruolo della NATO sempre più impegnata globalmente, ma proprio parlando di Afghanistan si parlava della difficoltà di spiegare ai cittadini degli stati membri il perché le nostre truppe sono in Afghanistan e combattono in Afghanistan. Ecco, secondo voi è forse venuto il momento per la NATO di riscrivere il concetto strategico? L'attuale concetto strategico risale al 1999, quindi una situazione sicuramente molto diversa da quella in cui ci troviamo ora. È arrivato quindi il momento di riscriverlo e di parlando di riflettere meglio su che cosa è e su quali sono i suoi obiettivi, secondo voi? Ma io credo che in questi ultimi tempi la NATO stia già ripensando in parte la sua dottrina strategica, anche se, come accennavo prima, concretamente penso che un lavoro completo di revisione del suo concetto strategico si farà solo al vertice di Lisbona del 2010. Negli ultimi 15 anni la NATO ha certamente dimostrato una notevole adattabilità, ha ampliato il numero dei propri membri, ha esteso in modo significativo l'area di stabilità in Europa, ma anche al di fuori di questa, e poi ha anche riconosciuto che la sicurezza appunto è divenuta un problema globale, con la conseguenza che essendo la più importante organizzazione di sicurezza dell'Occidente, la NATO in qualche modo deve essere in grado di operare al di fuori dell'area euroatlantica se vuole, come dire, rimanere credibile agli occhi dei propri membri e del resto del mondo. E certo, resta il bisogno urgente di un ulteriore cambiamento. Dove? In primo luogo riguardo proprio alle ragioni stesse dell'esistenza della NATO, che si concretizzano nella necessità del rafforzamento del legame transatlantico e nella difesa collettiva. Cosa voglio dire? Che dobbiamo cominciare a entrare nell'ordine di idee che gli attacchi del futuro, ecco, potranno assumere delle forme non più convenzionali, come ad esempio mi riferisco alle offese terroristiche oppure quelle di carattere cibernetico. Secondo me altro tassello fondamentale sarà la capacità di garantire la sicurezza energetica degli alleati. Questo mi sembra un punto molto rilevante. La NATO può e deve avere un ruolo nella salvaguardia delle risorse energetiche e nella protezione anche dei sistemi di trasporto e di trasporto e di trasferimento di queste risorse. E garantire la sicurezza energetica, però, che cosa significa? Significa garantire la sicurezza marittima, di conseguenza affrontare e debellare ad esempio questa nuova, ma potrei anche dire vecchia, piaga della pirateria navale. E infine, sempre nell'ambito di questo nuovo concetto strategico, comunque di questa nuova evoluzione delle missioni NATO, secondo me va tenuto in debita considerazione anche la sfida ad esempio con il riscaldamento globale, la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e la gestione e il controllo dello spazio. Ecco, questi secondo me sono gli obiettivi che la nuova NATO dovrà darsi nei prossimi anni. Ma un concetto strategico è sempre un esercizio un po' ambivalente, nel senso che È un documento politico che deve essere negoziato fra tutti i 26 membri dell'alleanza, non sembra esserci ancora una piena coincidenza di vedute su cosa l'alleanza dovrà fare negli anni prossimi, anche perché appunto, come diceva Corrado, c'è una grande incertezza sulle minacce, su chi debba rispondere alle eventuali minacce, se l'alleanza o coalizioni di volontari, gruppi di paesi membri dell'alleanza, gli Stati Uniti da soli, ciascun paese per conto proprio e così via. In altre parole, un concetto strategico dovrebbe essere in qualche modo il portato di cose che già si fanno assieme, che hanno bisogno di essere codificate, e nello stesso tempo una specie di anticipazione di possibili nuove iniziative dell'alleanza. E al momento attuale, tra l'altro, con l'ingresso o il ritorno della Francia nel comando militare alleato di un paese che ha tra l'altro una visione molto tradizionale e conservatrice della funzione dell'alleanza, la Francia non ha mai visto con grande favore un'espansione geografica e funzionale delle missioni della NATO, quindi è piuttosto un fattore di freno il ritorno della Francia da questo punto di vista a pieno titolo nell'alleanza. Non è facilissimo capire come si concluderà l'esercizio, tra l'altro questi documenti sono spesso lunghi, un po' verbosi, difficili da decifrare, credo che nessuno si sia mai riletto negli ultimi 10 anni quello che fu licenziato nel marzo del 99, ancora una volta 10 anni fa esatti, alla vigilia della guerra in Kosovo. E quindi, come dire, forse non c'è da aspettarsi troppo dal documento, se non il fatto di rappresentare un esercizio che obbliga gli alleati a discutere fra di loro su che cosa vogliono fare assieme. Tra l'altro, oltre alle cose di cui parlava Corrado, forse gli ascoltatori non lo sanno, ma la NATO fa anche altre cose di cui non siamo spesso consapevoli. 4 anni fa elicotteri dell'alleanza intervenirono all'indomani di un terrificante terremoto nella regione del Kashmir fra l'India e il Pakistan per salvare i civili, perché la NATO era l'unica organizzazione in grado di andare con i mezzi necessari per questo tipo di missione in tempi molto rapidi in una zona così impervia e difficile da raggiungere. Quindi ha svolto in qualche modo una missione di protezione civile, tra l'altro nei confronti di una popolazione che con la NATO non aveva assolutamente nulla a che fare. Nel corso delle Olimpiadi che si sono svolte nel 2004 ad Atene e nel corso della Coppa del Mondo di Calcio che si è svolta nel 2006 in Germania, è stata la NATO a mantenere e a garantire la sorveglianza aerea e dello spazio fisico dei luoghi in cui si svolgevano le manifestazioni sportive, in modo anche da poter prevenire alcune eventuali azioni terroristiche. Si tratta quindi in qualche modo di un tipo di missione che non si riteneva dovesse un tempo essere proprio della NATO, ma per la quale evidentemente solo la NATO come organizzazione militare integrata fra paesi europei è in grado di fornire. Probabilmente anche questo troverà spazio, immagino, nel concetto strategico e continuerà a essere uno degli obiettivi e delle funzioni della NATO. Prima si parlava di Russia. A me è venuta in mente una frase che alcuni anni fa un amico finlandese mi disse, ed era: quando Mosca è il raffreddore, Helsinki prende l'influenza. Ora volevo chiedere ai nostri due ospiti che interesse può avere al giorno d'oggi un paese come la Finlandia ad entrare nella NATO. Un argomento questo che ritorna spesso in Finlandia e che vede sia l'opinione pubblica che la classe politica spaccati in due. Perché aderire ora all'alba del 2010 e non invece magari nel passato, 10 o 20 anni fa? Antonio, prego. Credo che ci valga anche la domanda opposta: perché non aderire alla NATO? Nel senso che Finlandia, ma anche la Svezia, che è un altro paese con una propria tradizione di neutralità, fanno parte della Partnership per la Pace, che è una specie di NATO allargata con piena partecipazione agli esercizi militari comuni, con una standardizzazione delle misure operative, delle procedure dell'alleanza. Quindi sono in molti a ritenere che questo gruppo di paesi a tutti gli effetti occidentali, ma che non sono formalmente membri dell'alleanza, soprattutto nella penisola scandinava, nel nord Europa, siano delle specie di membri nascosti dell'alleanza, e se non fanno il passo finale è di solito essenzialmente per ragioni legate all'opinione pubblica, alla sua percezione della neutralità come un fattore di identità nazionale. È sicuramente il caso anche per la Finlandia. C'è stato un dibattito alcuni anni fa proprio in questo senso, e all'epoca fu il Presidente della Repubblica Tarja Halonen, che è una pacifista convinta, a mettere una specie di veto sia alla discussione pubblica che tanto più alla discussione in quella direzione. Non escluderei che qualora in particolare le relazioni con la Russia negli anni prossimi dovessero distendersi, possa diventare più facile per questi paesi fare questo passo, non cioè in una situazione di tensione con Mosca, soprattutto per quanto riguarda la Finlandia, che con Mosca divide molte centinaia di chilometri di confine, ma in una situazione invece di distensione, in cui il loro eventuale ingresso nell'alleanza non venga visto come un atto ostile rispetto a Mosca. Sì, concordo, credo proprio che la domanda si possa appunto fare anche al contrario. Io credo che la partecipazione della Finlandia alla partnership per la pace sia essenzialmente una partecipazione mascherata alla NATO, ecco, e allora ritengo che prima o poi, diciamo, la Finlandia dovrà fare questa scelta di entrare nell'alleanza a pieno titolo, come ad esempio ha fatto di recente la Francia, sfidando un po' quella che è l'opinione pubblica piuttosto è timorosa di, insomma, appartenere a un'organizzazione che era nata tutto sommato per scopi e obiettivi che in questo momento, diciamo, sono venuti meno, nonostante i rapporti con la Russia siano in qualche modo in una fase di scongelamento, ma insomma arrivino da una fase critica. La Finlandia, a mio avviso, prima o poi, insomma, dovrà fare questo passo e sarà come rivelare a tutti quello che in un certo senso di fatto già fa attraverso questi organismi paralleli che sono legati tutto sommato alla NATO, dalle stesse finalità o quasi. Siamo quasi in chiusura, Maurizio, hai una domanda? Sì, volevo, tornando a parlare di Afghanistan, mi sembra che abbiamo toccato un po' poco l'argomento Pakistan, che abbiamo visto anche la settimana scorsa con la manifestazione di Sharif contro il presidente Zardari. C'è una certa instabilità e dal Pakistan dipende un po' anche quello che sarà l'esito della missione in Afghanistan. La situazione è molto complessa perché appunto alle difficoltà della situazione in Afghanistan si aggiunge un'instabilità molto grave in Pakistan, che abbiamo visto nell'ultimo anno. Nel corso di un anno se n'è andato Musharraf, il presidente dittatore del paese, militare, c'è stato l'assassinio di Benazir Bhutto, ci sono state le elezioni che hanno portato il vedovo di Benazir Bhutto alla presidenza, ma in una situazione di grande rivalità con Nawaz Sharif, questa tensione fra i due principali leader del fronte democratico è ancora molto forte, ma per quanto riguarda, e quindi, diciamo, una destabilizzazione del Pakistan, che tra l'altro è una potenza nucleare, il ruolo che determinate forze all'interno del paese svolgono anche nella destabilizzazione di paesi vicini. L'attentato di Mumbai ormai è accertato, è stato avviato da forze pakistane probabilmente non lontane dai servizi segreti di Islamabad. I servizi segreti di Islamabad nel tempo passato sono stati in qualche modo complici prima dei talebani e poi in genere dell'insurrezione islamista in tutta la regione. Il confine fra Pakistan e Afghanistan è terra incognita, terra di nessuno, e si dice che lo stesso Osama Bin Laden sia nascosto in quelle caverne. È ovvio che rende molto più difficile anche la soluzione del problema dell'Afghanistan in senso stretto, ma nello stesso tempo moltiplica le difficoltà per l'Occidente, perché se per colpire il nemico terrorista islamista le forze americane cominciano a bombardare e intervenire direttamente, come hanno fatto nelle ultime settimane in territorio pakistano, evidentemente che il rischio è quello di un effetto domino della destabilizzazione anche in Pakistan. E appunto il Pakistan è un paese di 180 milioni di uomini ed è una potenza nucleare. Corrado? Sì, tutto giusto, aggiungo soltanto un dato, che proprio oggi colui che viene indicato come il prossimo ambasciatore americano a Kabul, cioè il generale Ken Berry, che peraltro è stato in Afghanistan in almeno due occasioni, ha ricordato come una parte dei servizi deviati, dei servizi segreti deviati di Islamabad continua a sostenere sostenere l'attività dei talebani e degli estremisti. Ecco, questo certamente, diciamo, è un fatto su cui gli americani puntano molto. Queste relazioni oscure o ambigue tra il Pakistan e i talebani sono certamente uno degli aspetti importanti, diciamo, da tenere in considerazione se si vuole pacificare l'intera area. È evidente che anche la situazione politica difficile, travagliata, che sta attraversando Islamabad da oltre un anno, non aiuta per nulla. Ecco, quindi è vero che se si vuole un successo in Afghanistan, se si vuole un successo della diplomazia in Afghanistan, certamente questo successo deve passare attraverso Islamabad, tutti i suoi canali e tutte, insomma, tutto quello che Islamabad può fare per stabilizzare l'area. Un'ultima cosa aggiungo, che il primo di aprile ci sarà un incontro importante tra Zardari e Karzai ad Ankara, grazie alla mediazione turca. Gül, il presidente turco, si sta spendendo molto per pacificare, per provare a pacificare l'area. Ecco, credo che anche da questo punto di vista un contributo della Turchia può essere appunto ben accetto e può essere importante per raggiungere l'obiettivo finale, che è quello della